Focus Economia. Con Deborah Rosciani. Sono le 17.07, buonasera da Deborah Rosciani e benvenuti a Focus Economia. Siamo di nuovo in diretta anche questa sera per raccontarvi i temi della giornata economico-finanziaria in questa giornata particolarmente uggiosa per Milano, stranamente. Dopo la temperatura torrida degli ultimi giorni, adesso è arrivata la pioggia e però con questa anche le notizie della finanza italiane, che non sono però negative. Per quello che riguarda la borsa, la giornata è stata piuttosto brillante da questa mattina, soprattutto per Milano, che sta avviandosi a gestire l'ultima mezz'ora di contrattazione con un rialzo che è superiore al punto percentuale, un po' più ridotto il calo delle altre piazze europee, che però hanno mantenuto il segno più da questa mattina. L'avvio era stato un po' più incerto, ma poi la direzione è stata più precisa. Abbiamo adesso più 0,39% a Parigi, più 0,48% a Francoforte, Londra più 0,29%. Ritraccia in questo momento Wall Street, che era partita bene e adesso invece cede lo 0,27%. Se la giornata sul Dow Jones continuasse in questa maniera, sarebbe la quarta giornata consecutiva di ribasso per Wall Street, che così ha perso lo smalto che invece aveva caratterizzato le ultime sedute, giugno e luglio, mesi che hanno proiettato i listini statunitensi sui loro record storici. È comunque negativo il Dow Jones, ma sono positivi gli altri listini. Il Nasdaq è più 0,12%, lo Standard & Poor's è sulla parità. Per quello che riguarda Piazza Affari, dedicheremo alla piazza finanziaria appunto italiana uno spazio di approfondimento che riguarderà prevalentemente le banche nella seconda parte di Focus Economia, perché ieri sera, lo ricorderete, l'abbiamo data proprio prima della chiusura, è stata diffusa la semestrale di Monte dei Paschi. E mentre per tutte le altre banche i conti sono stati piuttosto soddisfacenti, i titoli stanno andando abbastanza bene in borsa, Monte dei Paschi ha deluso le aspettative e il consenso di mercato. Il titolo perde il 2,45%, ma la domanda è, a questo punto, visto che nell'amministratore delegato Fabrizio Viola ha detto di voler prendere in considerazione e di attuare le indicazioni appunto fornite dalla Commissione europea, che ha chiesto al gruppo senese di rivedere il suo piano di ristrutturazione, probabilmente il mercato si domanda in quali punti questo piano verrà rivisitato appunto e cosa intende fare la società nei prossimi mesi. Le perdite sono di circa 800 milioni di euro appunto a fine giugno, un anno fa erano ad 1,5 miliardi, la situazione è molto migliorata ma ancora c'è il segno meno, comunque la ristrutturazione sta andando avanti. Parleremo appunto di questa banca, ma anche di altre banche, di Banca Carige. Abbiamo parlato spesso in questi giorni, appunto trattandola come società quotata in tutte le sue vicende. Poi c'è un'altra società, un'altra banca che vive delle settimane molto delicate, è Banca delle Marche, e di tutte queste situazioni appunto vi parleremo più tardi con Fabio Pavesi del Sole 24 Ore. E però che cosa è successo anche nelle ultime ore in Parlamento? È che è stato convertito in legge il decreto sostanzialmente che prevede misure per rilanciare l'occupazione, quello che è stato varato ad inizio giugno appunto nel pacchetto Giovannini, un pacchetto all'interno delle quali ci sono molte novità rispetto a quello che aveva fatto un anno fa invece il ministro Elsa Fornero. Oggi abbiamo la conversione in legge, per cui vi ribadiremo un po' i punti centrali di questo pacchetto, quali sono gli incentivi più importanti per le aziende che intendono fare nuove assunzioni. C'è tutta quella parte, come ricorderete, perché tante puntate di Salva Danaio abbiamo dedicato a questo argomento. Ci sono tutti quegli incentivi dedicati soprattutto alle assunzioni di giovani e giovanissimi e tante cose appunto da raccontare e interessanti su questa su questo pacchetto. Non è una riforma radicale e però insomma gli interventi ce ne sono molti, soprattutto si tenta di dare, come dire, uno scatto adesso al mercato del lavoro, perché c'è molto bisogno evidentemente nell'immediato. Questi i temi principali che affronteremo stasera. Chiaramente potete commentare con noi se volete i fatti del giorno, come fate di consueto al 349 238 6666. Adesso direi di andare alle notizie in breve. Abbiamo come sempre in primo luogo le quotazioni delle materie prime. L'oro oggi è risalito rispetto a ieri a 1295,8 dollari l'oncia. Il petrolio invece, a fargli da contraltare, ha aperto in calo a New York a 103,42 dollari al barile. Il Giappone, parlando di borsa, non ne abbiamo parlato, ma ve lo dico adesso, stamattina dopo il meno 4 di ieri, oggi per Tokyo c'è stato un nuovo ribasso dell'1,59%. La Banca Centrale del Giappone ha lasciato invariata la politica monetaria e il piano di stimolo all'economia. In linea con le attese del mercato, ha confermato il programma di acquisto di asset volto a raddoppiare la massa monetaria in 2 anni per contrastare la deflazione. L'Istituto Centrale Giapponese ha anche confermato l'outlook e la previsione sull'economia, segnalando una modesta ripresa. Rimbalzo superiore al previsto, questo è un dato diffuso questa mattina presto, del commercio con l'estero della Cina, che in questo modo, dopo molti mesi di indebolimento, offre spiragli incoraggianti su prospettive di ripresa, uno sviluppo rilevante alla luce dell'effetto traino che il dragone ha in tutta l'Asia e sul quadro globale, ma sul quale gli analisti continuano a mantenere una certa cautela. A luglio le esportazioni cinesi hanno messo a segno un incremento del 5,1% a quota 186 miliardi di dollari, mentre le importazioni hanno segnato un incremento addirittura a 2 cifre con un più 10,9% nel confronto su base annua a 168,2 miliardi di dollari. Come sappiamo, appunto, è in corso questa rivoluzione, se vogliamo, anche dell'economia cinese, che ha l'obiettivo di incrementare lo sviluppo, appunto, dell'economia domestica più che crescere su base, appunto, sulla base delle esportazioni che riesce ad effettuare. JP Morgan, e qua ne abbiamo una al giorno. Oggi tocca a JP Morgan ad essere nel mirino delle autorità americane. Il Dipartimento di Giustizia ha avviato un'inchiesta penale nei confronti della banca d'affari, anche in questo caso per i titoli legati ai mutui prima della crisi fra il 2005 e il 2007. La notizia, appunto, segue, infatti ve la ricorderete, ve l'abbiamo data ieri, l'azione legale che il governo americano ha avviato contro Bank of America, accusata di avere ingannato gli investitori confezionando titoli garantiti da mutui che sapeva invece essere spazzatura tossica. La disoccupazione. Oggi abbiamo avuto i dati sui sussidi settimanali di disoccupazione negli Stati Uniti. Nella scorsa settimana le richieste sono salite di 5.000 unità a 333.000 complessive. Il dato sulla media delle ultime 4 settimane, che è considerato più stabile e meno volatile, si è attestato a 335.500, il dato migliore dal novembre 2007. Non vanno invece tanto bene le cose, e qua lo sappiamo bene, in Grecia, dove la disoccupazione giovanile ha raggiunto in maggio, sentite qua che cifra, il 64,9% contro il 55% di un anno fa, e non è che le cose andassero bene, e il 57% di aprile. Il tasso complessivo ha toccato il record del 27,6% contro il 23,8% di un anno fa, e il 23,8% appunto di un anno fa, lo ha reso noto l'Istituto di Statistica Ellenico. La Banca Centrale Europea oggi ha diffuso il suo bollettino mensile. Cosa dice Francoforte? Intanto è confermato che l'orientamento di politica monetaria resterà accomodante fino a quando sarà necessario. La BCE dice di attendersi che i tassi di interesse di riferimento rimangano su livelli pari o inferiori a quelli attuali per un prolungato periodo di tempo. Sono esattamente le parole che ha detto nell'ultima riunione del direttivo della BCE Mario Draghi. La Banca Centrale Europea ha fatto anche sapere di riscontrare una cauta conferma all'aspettativa dello stabilizzarsi dell'attività economica alla luce dei recenti indicatori del clima di fiducia, che sono basati sui risultati delle indagini che mostrano qualche ulteriore miglioramento a partire dai livelli bassi. Un modo, insomma, un po' più semplice per dire che questa lucina in fondo al tunnel si comincia a vedere, insomma, io direi che possiamo interpretare così queste parole. Però la Banca Centrale Europea afferma anche che le condizioni del mercato del lavoro permangono deboli, e nel 2013 e nel 2014 la crescita delle esportazioni dell'area dell'euro dovrebbe beneficiare di un'altra progressiva ripresa. Quella interna è sostenuta dalla politica monetaria accomodante e dagli aumenti del reddito reale. La dinamica, infine, dei prestiti a famiglie ed imprese, sottolinea la BCE, resta debole. Nel secondo trimestre di quest'anno la concessione del credito delle banche continua ad essere frenata dal rischio dei prenditori, e quindi da chi chiede credito evidentemente, e dall'incertezza macroeconomica. Tuttavia l'inasprimento dei criteri di erogazione del credito si è ridotto per i prestiti alle famiglie, mentre è rimasto invariato per le società non finanziarie. Qualche dato ce l'abbiamo oggi anche dalla Banca d'Italia, che ha fatto sapere che a giugno di quest'anno i prestiti delle banche al settore privato hanno registrato una contrazione su base annua del 3%. Quelli alle famiglie sono scesi di un punto percentuale nell'ultimo anno. Mentre il tasso di crescita su base annua delle sofferenze bancarie a giugno è stato del 22%, in leggera diminuzione rispetto al mese precedente, quando era al 22,4%. La stretta della crisi del mercato immobiliare non si allenta e nel secondo trimestre di quest'anno è proseguita la fase di debolezza per compravendite e prezzi, e quanto emerge dall'osservatorio congiunturale di Banca d'Italia sul mercato immobiliare, dal quale risulta che proseguono le indicazioni di flessione delle quotazioni e le diminuzioni degli incarichi a vendere. Superare l'attuale sistema di tassazione della prima casa non vuol dire eliminare l'IMU sulla prima casa per tutti. Lo afferma il vice ministro dell'Economia Stefano Fassina in un commento che ha rilasciato sul social network Facebook. Si dovrebbe ricordare che tra le priorità da affrontare vi è anche il rinvio dell'aumento dell'IVA, il rifinanziamento della cassa integrazione in deroga e la soluzione del drammatico problema degli esodati. Tutti impegni, ha ricordato Fassina, affermati dal presidente Letta nel suo discorso davanti al Parlamento. Il fatturato dell'industria italiana al netto delle partecipazioni estere dei grandi gruppi si è attestato nel 2012 sotto i livelli del 2008, con un calo dello 0,2%. Oggi è stato diffuso anche questo tradizionale rapporto di agosto sulle aziende italiane rilasciato dall'ufficio studi di Mediobanca. Questa è un'indagine che si basa su un monitoraggio su 2035 società italiane sopra i 500 addetti. Questo rapporto dice anche che l'industria italiana ha perso il 4,4% di competitività dal 2003 al 2012, con un calo dell'occupazione pari al 7,3%. Il tasso di frode per i pagamenti con le carte di credito nel 2012 risulta pari a 0,019%, in diminuzione rispetto al tasso registrato nel 2011, quando questo livello era del 2,8%. È un dato molto inferiore all'analogo fenomeno che si riscontra appunto nel Regno Unito, in Francia e in Australia. Questa indicazione è stata diffusa dal Ministero dell'Economia e delle Finanze nel rapporto sulle frodi con le carte di pagamento. Ancora un paio di notizie, poi il nostro primo approfondimento di oggi. Ripartono la prima settimana di settembre le trattative sul rinnovo dei contratti per il pubblico impiego, fermi da 5 anni. Lo annuncia il ministro per la funzione pubblica, precisando che è confermato il blocco delle retribuzioni per il 2014, un blocco che vale 7 miliardi di euro e, ha detto il ministro, non li abbiamo. La contrattazione riguarderà la parte normativa da integrare nel 2015 con il trattamento economico. E i dipendenti pubblici in Italia sono i più anziani dell'insieme dei paesi OCSE. Lo afferma l'ARAN, appunto l'agenzia che si occupa proprio di questo settore, sottolineando che poco meno della metà ha un'età pari o superiore a 50 anni. Direi che possiamo lasciare le tante, tantissime notizie in breve che vi abbiamo dato oggi. Andiamo al primo approfondimento di questa puntata di Focus Economia. Francesco ci scrive sottolineando una notizia che abbiamo dato relativa alla politica monetaria dell'Europa, appunto, dice: la politica economica non è accomodante, è espansiva. Francesco, da quello che mi risulta, ai microscopici studi che ho fatto su questo settore, mi sembra che le due situazioni si equivalgano, ma così, insomma, mi era andato l'occhio adesso su questo messaggio. Andiamo invece al tema di oggi. Quello che viene riportato oggi con grande enfasi da tutti i giornali, c'è stato il via libera definitivo in Parlamento al decreto lavoro, che introduce incentivi e sgravi alle aziende che assumono. È prevista per tutto questo una dote da 800 milioni di euro. Alcuni dei punti più importanti: per chi assume a tempo indeterminato giovani fra i 18 e i 29 anni, arriva uno sgravio contributivo fino a 18 mesi con tetto di 650 euro al mese. Tornano poi a ridursi rispetto alle decisioni che aveva preso invece il ministro Fornero le pause per i rinnovi dei contratti a tempo, da 60 a 90 giorni a 10-20 giorni. Incentivi sono previsti anche per le assunzioni a tempo indeterminato di disoccupati che fruiscono appunto dell'ASPI, all'azienda che fa questa assunzione arriverà il 50% dell'indennità mensile residua e tanti altri punti ancora. L'avvocato Giampiero Falasca, giuslavorista, esperto sulle tematiche del lavoro per il Sole 24 Ore, buonasera. Buonasera, ci sente? Buonasera, eccoci qua. Abbiamo richiamato l'avvocato Falasca, che se ci seguite dalla mattina alla sera sapete che ci aiuta moltissimo nel nostro programma Salvadanaio a spiegare tutti i contenuti di tutti gli interventi che si fanno sul tema del lavoro. L'anno scorso abbiamo spiegato in lungo e in largo le novità che aveva introdotto la riforma Fornero e poi a giugno, avvocato Falasca, abbiamo dovuto ricominciare, no? Si ricorda quante... Allora, andiamo al pacchetto che ha avuto il via libera nelle ultime ore, ieri appunto dal Parlamento, il pacchetto Giovannini, chiamiamolo così, anche se in realtà forse è più corretto ricondurre questo pacchetto di interventi appunto al Premier Letta, ma in ogni caso 12 articoli per rilanciare l'occupazione italiana soprattutto tra i giovani. Io ho detto alcuni dei punti, ma se lei dovesse definire quelli che sono i capisaldi di questo pacchetto, quali sono i più importanti? Beh sì, sicuramente sono due grandi gruppi di interventi, c'è cioè il gruppo incentivi e politiche attive, dentro il quale stanno quelli che sono stati ricordati, quindi l'incentivo per l'assunzione dei giovani, l'incentivo per chi assume i percettori di ASPI e poi la struttura, magari dopo ne parliamo, per la garanzia giovani. E poi la seconda gamba del provvedimento è quello di diciamo aggiustamento tecnico di alcuni contratti della legge Fornero. Il tratto comune di tutto il provvedimento, quindi queste due gambe, incentivi e contratti di lavoro, il tratto comune degli interventi in queste due aree è che sono tutti micro interventi. Diciamo, ricordiamo un po' la retorica del cacciavite di Enrico Letta, no? E qui si è usata molto questa tecnica, non c'è nulla di straordinariamente innovativo e è voluta questa tecnica, ma sono tanti micro interventi. Io, se posso dare una prima valutazione complessiva, dico che probabilmente questa tecnica può anche andar bene. Diciamo, quello che era molto atteso dopo la legge Fornero del 92, dello scorso anno, la numero 92, e che è stato invocato in questo anno fortissimamente da tutti gli attori del sistema, cioè una grande semplificazione del lavoro, quello purtroppo non c'è. Ecco, diciamo, quindi ci sono gli incentivi, ci sono i ritocchi, manca la semplificazione, questo ecco, è un infatti, vecchio problema del quale che abbiamo sollevato anche tante volte. Esatto, senta, noi abbiamo cominciato a spiegare le novità di questo nuovo pacchetto da quando sono state varate, quindi ci siamo dedicati a questo argomento proprio dalla prima metà di giugno. In quel momento chiaramente era anche abbastanza presto per poter come dire, commentare o individuare o prevedere il numero delle aziende che avrebbero beneficiato di questi incentivi. Oggi proprio il Ministero del Lavoro ha diffuso una rilevazione che lo stesso Ministero ha fatto eseguire da Unioncamere, perché ha voluto capire il Ministero quante tra le aziende con un numero di addetti inferiori a 50 fossero orientate ad utilizzare questi incentivi previsti dalla legge di conversione del decreto lavoro. Allora, il 76% delle imprese monitorate è a conoscenza dell'esistenza degli incentivi. Vabbè, tra l'altro questo già stupisce, che non tutte le aziende italiane sappiano che ci siano queste risorse a loro disposizione. Sono anche un po' scoraggiate probabilmente. Circa il 20% delle imprese di queste dimensioni prevede di usare gli incentivi sicuramente o probabilmente, ma insomma tutti questi tutte queste incertezze, perché avvocato Falasca, insomma, non c'è questa grande convinzione appunto della validità, della forza di questi incentivi, proprio per la questione che diceva lei, la burocratizzazione? Esatto, c'è una frase storica di Marco Biagi, diceva sempre che il suo incentivo economico avrebbe potuto compensare un disincentivo normativo, no? Noi siamo in un sistema dove una volta assunto il lavoratore non è solo, non è tanto il problema, il vecchio annoso problema dell'articolo 18 che non voglio neanche affrontare, ma diciamo oggi quando si assume una persona e si diventa improvvisamente nemici dell'ordinamento, che inizia a vessarti con una serie di adempimenti spesso privi di senso, e quindi a fronte di questo le aziende non decideranno, io purtroppo in questo sono molto scettico, nessuna azienda deciderà di assumere o non assumere una persona per i 600 euro che sono nel decreto Letta, perché comunque dietro c'è un carico di impegni amministrativi che seguirà il rapporto di lavoro fino alla fine, cioè persino quando il lavoratore si dimetterà ci saranno adempimenti con la convalida delle dimissioni e quant'altro, quindi diciamo, noi abbiamo un sistema di regole, c'era un articolo bellissimo di Michele Ainis di 10 giorni fa, su quella sera, in cui ha spiegato magistralmente questo in generale, ma io l'ho visto con l'ottica del lavoro. Abbiamo un sistema elefantiaco di regole che appunto che trasmette ostilità a chi deve assumere. Quindi io in questo non vedo, magari spero di sbagliare ovviamente, ma non credo ci sarà anche un grande impatto, perché poi c'è anche un altro problema, che l'incentivo economico per i giovani si va a sovrapporre con un incentivo che già esisteva, che era quello per chi assume apprendisti, e quindi si sono coordinate male le due misure, e quindi ci sono due incentivi quasi uguali sulla stessa fascia d'età. E poi magari si è lasciato un po' per strada il problema degli over 45 e degli over 50. Insomma, infatti, il tema che già le dico, appunto, ci sollevano gli ascoltatori che sono direttamente interessati da questa lacuna. Secondo lei, quando comunque cominceremo a vedere qualche effetto concreto di come queste 800 milioni appunto di risorse rese disponibili alle imprese italiane appunto produrranno degli effetti per la stabilizzazione dei giovani lavoratori? Io ho l'impressione che, diciamo, in qualche mese saranno già finite queste risorse, no? Quindi tutte le nuove assunzioni assorbiranno questo incentivo. Diciamo, sarà importante il monitoraggio e la valutazione, perché poi tutti, io per primo l'ho appena fatto, diamo i giudizi prima, no? Però è importante poi misurare l'efficacia delle politiche del lavoro, che è un altro problema drammatico italiano, è che non si misura nulla, si fanno in continuazione riforme, ma poi non c'è una struttura. Ora lo sta provando a fare l'ISFOL con qualche risultato, che monitora periodicamente. Io penso che tra qualche mese dovremo iniziare a vedere, ci sono state più assunzioni rispetto allo stesso periodo dello scorso anno. Consideri che questo è un periodo difficilissimo per trarre delle conclusioni, perché le dinamiche occupazionali sono talmente imprevedibili, per cui dire che una certa misura, un certo effetto, anche se andasse male paradossalmente, non potremmo dare tutta la colpa al decreto Letta, no? In atto una crisi economica. Esatto, c'è qualche problema più strutturale, diciamo che. Senta, però in tutto questo, appunto, a parte questi interventi che sono un po' polverizzati, come diceva lei, c'è un grande progetto che riguarda non solo il governo italiano, ma riguarda tutta l'Europa. Entro breve, appunto, presso il Ministero del Lavoro nascerà la struttura di missione con il compito di attuare la cosiddetta Youth Guarantee, la garanzia giovani, appunto, che è questo grande progetto europeo, chiaramente per smantellare nella misura maggiore possibile la disoccupazione giovanile. Ecco, che versione avrà questa la garanzia giovani, appunto, all'italiana? Ma guardi, io lei oggi mi fa domande che mi faranno passare per un inguaribile pessimista. La conosciamo da mesi, eppure continuiamo ad invitarla, no. Veda un po' lei. Allora, un po' di realismo, ecco, proprio, diciamo. Ho scritto proprio sul Sole che è stata convocata una riunione per legge, potevano mandare un'email, perché diciamo la versione italiana della garanzia giovani è che nel decreto Letta c'è scritto che una serie di persone molto illuminate, e lo dico senza ironia veramente, tra cui il presidente dell'ISFOL, il segretario generale del Ministero del Lavoro e così via, dovranno incontrarsi e fornire indirizzi al governo, idee, suggerimenti per un altro, diciamo, comitato di saggi. Esatto. Quindi dispensiamo saggezza dappertutto. Diciamo che poi il precipitato di tanta saggezza ancora non lo vediamo proprio attuato. E questo è l'inizio. Consideri che le risorse per il primo anno di questa struttura sono 20.000 euro, per capirci di cosa stiamo parlando. Quindi ho la carta per le fotocopie e così via. È chiaro che diciamo è stato si è partiti dando molta enfasi a questa struttura, evidentemente poi non si è trovato, insomma, il bando alla matassa, e il risultato è che ad oggi la garanzia giovani non c'è, cioè diciamo il programma della garanzia giovani ad oggi in Italia è un comitato. Allora, non dico che debba per forza, perché sa, poi io ho l'impressione che la garanzia giovani sarebbe far funzionare la scuola media e superiore, non ambisco fino all'università, però diciamo che nella versione comunitaria vorrebbe dire trovare una serie, dare ai giovani in cerca di occupazione un primo intervento in termini di colloqui, di orientamento immediato. Benissimo, avvocato Falaschi, io devo salutarla perché abbiamo altri temi. Noi comunque, insomma, abbiamo intanto capito il nocciolo del pacchetto appunto che ha avuto il via libera questa mattina, anche se l'abbiamo spiegato. Ci ritorneremo nei prossimi mesi, perché monitoreremo anche il grado di attuazione e il grado anche, come dire, di utilizzo da parte delle aziende di queste risorse, e poi capiremo appunto se queste novità novità hanno funzionato o meno. Intanto comunque per certe situazioni si gestiscono ancora purtroppo in emergenza, come il caso appunto della Berco, la società della ThyssenKrupp, che però appunto ha avuto uno sbocco positivo nonostante i problemi degli ultimi giorni che non lasciavano presagire nulla di buono. È stata siglata presso il Dicastero del Lavoro un'ipotesi di accordo per una proroga appunto di 12 mesi della cassa integrazione di questo gruppo. Che cosa prevede oltre a questo accordo? Lo scopriremo tra poco con la nostra Filomena Greco del Sole 24 Ore, che c'è già, credo. Filomena, sì, eccoci qua. Qui. Ti chiedo un minuto di pazienza, ci ascoltiamo un po' di pubblicità e poi andiamo appunto a raccontare le vicende di questa azienda. Eccoci ritrovati in diretta, ancora buonasera da Deborah Rosciani e ben ritrovati a Focus Economia. Tutto è bene, quel che finisce bene, Filomena Greco, il Sole 24 Ore, ancora buonasera. Allora, da Roma oggi lo sbocco positivo per la vicenda della Berco del gruppo ThyssenKrupp. Che cosa è successo al Ministero del Lavoro? Sì, c'è anzitutto da premettere che si è trattato di una trattativa molto lunga, molto dura e che ha un esito positivo, nel senso che ha in qualche maniera contenuto l'effetto sul lavoro e sugli addetti di questa azienda. Quindi è una trattativa che è andata in crescendo e ha ottenuto, diciamo, passo dopo passo delle condizioni migliorative rispetto al punto di partenza, questo sicuramente, ma si tratta di una trattativa difficile, soprattutto di un processo di ristrutturazione molto radicale a cui questa azienda è sottoposta per questioni sostanzialmente di mercato e di produzione. Sì, la cosa fondamentale, diciamo che intanto la cosa fondamentale è che sono stati scongiurati oltre 600 licenziamenti. Esatto, l'ipotesi peggiore era quella di un licenziamento, di una mobilità avviata per circa 600 persone. Questo discorso è stato superato grazie al fatto che il Ministero, gli enti locali, i sindacati hanno trovato un accordo insieme all'azienda per poter concedere 12 mesi di cassa integrazione straordinaria per ristrutturazione. Quindi ok alla ristrutturazione aziendale e industriale attraverso 12 mesi di cassa integrazione per 438 persone in sostanza. E questa è la cosa fondamentale che in qualche maniera tutela per un anno il futuro di questi lavoratori, insieme a tutta un'altra serie di riconoscimenti economici per chi per esempio sceglie la mobilità volontaria, cioè decide di lasciare l'azienda per cercare un nuovo lavoro, e che questo tipo di istituto in particolare prevede aiuti fino a 65.000 euro, incentivi fino a 65.000 euro per chi volesse, diciamo, tentare di cambiare lavoro e di mettersi in maniera volontaria. Volevo anche così un po' per spiegare di quale azienda stiamo parlando ai nostri ascoltatori. Appunto, dicevamo, appartiene al gruppo ThyssenKrupp e ha vari siti produttivi nel piemontese. Produttivi in Italia, uno nel piemontese, il più tra i più piccolini di tutti, una settantina gli addetti, ed era quello che ha fatto in qualche maniera reso più in salita l'ultima fase di questa trattativa, perché il sito piemontese è a Busano Canavese ed era un sito in cui una delle tante bozze di accordo c'era scritto nero su bianco il destino della chiusura definitiva di questo polo produttivo. L'impegno delle organizzazioni sindacali, delle istituzioni locali, poi anche accettato dall'azienda, è quello invece di lasciare una porta aperta per questo sito, un po' sul modello di quanto realizzato per il sito Indesit della Nonne, cioè si parla di reindustrializzazione, si costruisce una cabina di regia tra sindacati, enti locali e azienda, e si cerca di aprire le porte a nuovi investitori, a un nuovo futuro industriale per questo polo, che quindi non è detto sia destinato alla chiusura, ma ha sostenuto e aiutato dall'intero sistema economico istituzionale a cercarsi un futuro. Insomma. Ma l'azienda sta già parlando e trattando con degli interlocutori a questo fine? In da quello che sapete? Da quello che sappiamo non ci sono contatti veri e propri. Quello che però è vero è che il sito di Busano Canavese della Berco, del gruppo ThyssenKrupp, è all'interno di un'area fortemente manifatturiera, fortemente industrializzata nel Canavese. Nell'Alto Canavese c'è il polo dello stampaggio a caldo, in cui è concentrata la stragrande maggioranza della produzione di questo tipo di manufatti di tutta Europa, quindi è sicuramente una zona altamente di importante manifattura, insomma, in cui sicuramente non mancano i soggetti industriali e economici che potranno guardare a questa azienda, certo considerando il momento economico assolutamente difficile per l'acciaio e per la manifattura in genere. Sindacati che cosa dicono? Sono soddisfatti oppure pensano che avrebbero potuto ottenere qualcosa di meglio, tutto sommato, per come sono finiti finite le cose, appunto, hanno espresso un po' di soddisfazione. Che cosa dice il mondo sindacale del settore della siderurgia? Sì, la cosa significativa, che è sempre significativa in casi estremi come questo, è che l'accordo siglato questa notte, all'alba, insomma, al Ministero, un accordo unitario, cioè che porta le firme di tutti e tre i sindacati dei metalmeccanici. Questo significa che comunque c'è un sostegno, una presa di responsabilità e un riconoscimento di valore alla trattativa da parte di tutti i soggetti. C'era stato un momento di grande tensione, insomma, due giorni fa nel passaggio fra la bozza di accordo fatta a Ferrara e quella invece conclusa ieri, questa mattina al Ministero. Uh-huh. La soluzione, insomma, su Busan e soprattutto il passaggio relativo al fatto che ci sarà tra un anno comunque una verifica sugli strumenti messi in campo per cercare di rendere non automatici i licenziamenti, ha messo d'accordo tutti. Uh-huh. E adesso, da quello che ho capito, appunto, verrà monitorato attentamente l'andamento del piano di ristrutturazione per verificarne gradualmente i risultati, no? Sì, ci sarà un check-up questa è la strada, il percorso. C'è una cabina di regia che monitora uh-huh. passo dopo passo quello che accade e soprattutto le chance che si possono aprire per questo sito e per gli addetti, soprattutto quelli piemontesi. Insomma, allora, speriamo che sia qualcosa di più che un tampone di un anno, appunto, questa risoluzione tra Ministero, azienda e sindacati, e chissà che questo modello, diciamo, di Busano Canavese, appunto, possa rappresentare anche un esempio per altre società in crisi, per le quali invece sbocchi sembrano non esserci, come nel caso, appunto, se non mi ricordo male, l'hai citata Filomena, nel caso di Indesit. Sì, in quel caso prima che ci fosse mm-hmm. diciamo l'accelerazione delle ultime settimane in Piemonte mm-hmm. era stata trovata una soluzione di questo certo. tipo per lo stabilimento di Nome. Sì, molto bene, questa è una strada percorribile. Esatto, grazie a Filomena Greco per essere stata con noi. Filomena, buona serata, buon lavoro. A presto, arrivederci. Adesso andiamo a raccontarvi la giornata di borsa. E vedo che c'è stato anche uno scatto finale per Milano, che chiude con un più 1,83% sul FTSE MIB. Ceo Condina, Radio Cori, Il Sole 24 Ore, buonasera a te. Ciao, buonasera a tutti. Allora, sono proprio i dati sull'export cinese che hanno spinto le borse o abbiamo avuto anche qualche storia così individuale? Io credo che su Milano un po' forse l'attenzione prevalente è stata concentrata sulle trimestrali, però insomma tutto fa brodo, come si dice. Sì, dai, è stato un mix di fattori. Sicuramente c'è la questione dell'export e dell'import cinese, che sono aumentati diciamo oltre le attese degli analisti, certificando un grado di dinamismo del paese oltre appunto quelle che erano le attese. Poi c'è questo moderato ottimismo della BCE sull'economia europea. Poi nel caso di Milano, che come dicevi è salita dell'1,8% a fronte del mezzo punto percentuale guadagnato dai principali listini, c'è il balzo delle banche, che come sappiamo pesano molto a Milano, di più rispetto a tutta Europa sul paniere principale. Uh-huh. Cominciamo con le trimestrali. Allora, direi che il mercato ha particolarmente apprezzato quella di Toz, Diego Della Valle, oggi sicuramente può festeggiare. Eh sì, oggi è stata una giornata importante sia per Toz che per tutto il lusso. Infatti anche Prada ha registrato dei risultati in crescita. Toz è subito balzata in avvio più 8% dopo la semestrale, che ha visto un utile che è aumentato a 75,7 milioni e soprattutto l'ottimismo di Diego Della Valle per quanto riguarda il resto del 2013. Poi si fa per dire, ha leggermente ripiegato, alla fine Toz ha chiuso a più 6,1% indossando la maglia rosa del FTSE MIB. Stamattina andava anche meglio, tra l'altro, se non mi ricordo, e a un certo punto ha toccato anche il più 8. Sì, UbiBanca più 4,76%, Unicredit più 4,49%, i conti di Piazza Cordusio davvero continuano a spingere il titolo, pubblicati due giorni fa, ma evidentemente o continuano a leggere tra le pieghe di bilancio gli investitori e trovano elementi per cui appunto sono spinti a continuare ad acquistare, non so quali altre ragioni, CEO. Beh, sicuramente diciamo i conti erano molto buoni. Oggi comunque dobbiamo registrare che tutti i titoli bancari hanno guadagnato mm-hmm. molto. Intesa ha guadagnato più del 3%, lo stesso vale per Biper, per Mediobanca, e tra i finanziari vediamo anche Generali, che vabbè, ha guadagnato leggermente meno, l'1,6%, ma comunque ha toccato i massimi degli ultimi due anni. Fammi vedere quant'è sopra i 15 euro, 15,18 euro più 1,61%. Allora, per la verità, proprio ad andare a guardare tutti i 40 titoli, con il segno meno terminano in pochi: Ansaldo meno 0,07, Parmalat meno 0,16, Campari meno 0,31, 33, poi parleremo di Monte dei Paschi. Su Campari qualche notizia, il titolo sta risoffrendo da un paio di giorni, però questo mi pare che comunque storicamente va bene. Sì, sì, assolutamente, un titolo anticrisi Campari, tradizionalmente. No, diciamo che due giorni fa, dopo i conti e soprattutto dopo l'ottimismo espresso dal management per il resto dell'anno, era stato il migliore della seduta. Poi qualche correzione, la banca d'affari UBS comunque ha consigliato, ha confermato il fatto che il titolo è cresciuto molto e forse varrebbe la pena al momento di vendere, poi magari per rientrare in futuro, e quindi oggi ha ceduto poca cosa, comunque lo 0,33%. Gli acquisti e le vendite su Mediaset si sono equivalsi, perché il titolo è proprio fermo sullo 0,3,39 euro, senza infamia e senza lode. Chissà che non abbia avuto voglia oggi di riprendere a correre, CEO, il biscione. Oggi aveva subito dei realizzi, ma era tra i pochi titoli negativi. Poi appunto con il colpo di reni nel finale di seduta, Milano guadagnava l'1,3%, poi in pochi minuti è andata quasi a sfiorare il 2%, siamo arrivati sulla parità. Telecom continua il recupero, comunque dai minimi storici che aveva toccato il gruppo, oggi guadagna 2,5%, oltre 0,5 euro, qui insomma l'attesa, come sappiamo, è anche per settembre, quando ci sarà insomma una ridefinizione degli equilibri sicuramente all'interno di Telco, la scatola che controlla la maggioranza relativa di Telecom, e poi eventuali passi in avanti sullo scorporo della rete. Ce l'hai al volo lo spread? Sai che oggi non l'ho guardato quasi mai. Era 253, però era tipo alle 5, incredibile, 4. Stiamo cominciando a dissociarsi dal differenziale fra i titoli italiani e i titoli tedeschi. Grazie a CEO Condina di Radio Corriere Sole 24 ore, buonasera. Ribadisco, Milano più 1,83%, Parigi più 0,6%, Francoforte più 0,7%, Londra più 0,13%, contrastato il quadro americano con il Dow Jones che perde lo 0,16%, lo Standard & Poor's più 0,07%. Adesso i suggerimenti per chi è in viaggio, poi un'analisi approfondita sul tema delle banche italiane. Eccoci qua allora, ancora buonasera da Deborah Rosciani per l'ultima parte di Focus Economia. Mi fa compagnia Fabio Pavesi del Sole 24 Ore, buonasera Fabio. Buonasera a te e agli ascoltatori. Parliamo un po' di banche, naturalmente continuiamo intanto a bastolarle quando praticamente scopriamo che non danno soldi alle imprese eccetera, e poi chiaramente scopriamo che, a giudicare dai bilanci che hanno, almeno alcune di queste in passato ne hanno erogato, e anche fin troppo, a soggetti non proprio inappuntabili dal punto di vista della solidità e solvibilità. Direi, se vuoi però Fabio, prima di tutto di commentare un po' Monte dei Paschi, meno 2,40% oggi in borsa. I dati della semestrale ci sono arrivati ieri sera, proprio in questi minuti quando la trasmissione stava chiudendosi, non abbiamo potuto appunto analizzarli. Circa 800 euro di perdite nel semestre, un anno fa era 1,5 miliardi la perdita appunto iscritta a bilancio. Un grande piano di ristrutturazione, ci stanno lavorando molto duramente Fabrizio Viola ed Alessandro Profumo. L'Unione Europea non è però contenta esattamente del lavoro appunto che si sta facendo. La bocciatura del mercato secondo te è stata determinata da che cosa, almeno di oggi? Ma io credo che la bocciatura non sia tanto riferita alla perdita che è diminuita, ma a un aspetta fenomeno... che ho detto 800 euro di perdita, sì, 800 erano milioni 300, erano milioni, ma non credo 380 sia... milioni, esatto. Sì, non credo sia la perdita in sé, il dato che secondo me preoccupa il mercato, su MPS in particolare, ma su tutte le banche, è che continua a aumentare una voce di bilancio, che sono le rettifiche sui crediti. Cioè MPS, come le altre banche, hanno un livello di crediti malati, cosa vuol dire? Che sono prestiti fatti in anni passati e che non vengono restituiti, quindi vogliono dire perdita per la banca. E qui non stiamo parlando del mutuo di Zia Maria, qui cioè, parliamo di crediti spesso importanti, dati spesso a grandi imprese o a piccole imprese poi andate in difficoltà, e queste voci continuano ad aumentare. Nel bilancio di MPS questa voce continua ad aumentare. Ricordo che la media italiana dei crediti malati è il 12% fatto 100 il portafoglio, quindi un prestito su 10 è una perdita per la banca. MPS supera di gran lunga questo numero, e questo numero continua ad accelerare, quindi è ovvio che il mercato si aspetta che le perdite non diminuiranno tanto velocemente. Il problema è che il caso MPS si può replicare su quasi tutto il sistema bancario, e l'aspetto più inquietante è che non sono tanto le due grandi banche a essere molto in difficoltà, cioè Intesa e Unicredito, ma inaspettatamente o forse no, sono le banche piccole che in quest'ultimo anno hanno registrato abbondanti perdite sui crediti. Tutte quelle che, poveretta, hanno fatto anche un po' il loro dovere in questi anni, poi parleremo di Banca Marche che magari è una storia a parte, ma insomma hanno detto in tanti, per fortuna, le banche del territorio, esatto, che continuava, esatto, esatto, adesso si sta ritorcendo tutto contro. Questo copione che le banche del territorio erano più solide perché erogavano sul territorio. È un cliché, perché la Banca di Ferrara, la Cassa di Risparmio di Ferrara, è stata commissariata dalla Banca d'Italia e si è scoperto che è fallita perché ha prestato a un imprenditore milanese 100 milioni di euro e quella roba lì è andata tutta persa, quindi l'investimento non era a Ferrara, con i soldi di Ferresi, era a Milano su un immobiliarista campano che operava a Milano. È intervenuta anche la magistratura, quindi la banca è fallita per un'operazione fuori dal territorio. Ma il caso Banca Marche è analogo, cioè la banca per anni ha fatto vedere che aveva un portafoglio crediti pulito. Si è scoperto che era così pulito e c'erano anche gli utili, erano circa 100 milioni l'anno di utile fino al 2011, quindi uno vedeva la banca e diceva inappuntabile. Poi improvvisamente scopri che nel solo 2012 la banca rettifica perdite su crediti per 1 miliardo da 100 milioni, cioè ha aumentato di 900 milioni le perdite sui crediti in un anno solo. Ma perché? Perché la Banca d'Italia è andata a guardare e ha detto no, scusate, questo credito non lo recuperate, dovete metterlo a perdita. Allora sono capace anch'io, penso al dirigente della banca, sono stati ovviamente allontanati, uno si chiama Massimo Bianconi, vero, sì, dominus della banca, è stato allontanato insieme alla prima linea di manager perché il giochino era: io do prestiti a volte rischiando, nel senso che li do a un imprenditore che probabilmente rischia di fallire, gli do comunque e poi non faccio figurare il credito come malato, lo tengo come pulito, sano, e quindi la banca continua a fare gli utili, tutti erano tranquilli, sorpresa, non era vero. Forse erano in buona fede, pensavano veramente di recuperarli. Beh, quando tu dai i soldi, ad esempio, a Vittorio Casale, immobiliarista bolognese finito in carcere, e dai una quantità alta di soldi a Vittorio Casale. Cioè no, a me quella che ha stupito è stata l'erogazione di credito alla società La Ciccolella, perché questa azienda che fanno sono dei vivaisti, se non mi ricordo. Dicono che sia in realtà una scatola vuota. Ma in borsa hanno fatto delle crescite negli anni passati enormi. Ciccolella è un'azienda quotata. Io mi ricordavo sempre, tanti anni fa, Ciccolella diceva: attenzione, noi faremo grandi utili perché dobbiamo conferire un ramo olandese dentro la scatola vuota pugliese. Io questo ramo olandese non l'ho mai visto. No, ma io mi chiedo come la Banca delle Marche abbia, appunto, dato credito. Ciccolella opera in Puglia, Vittorio Casale operava a Roma. Allora, l'ex consorte di una signora illustre. Sì, pare ci sia anche questo imprenditore farmaceutico. È frutto di un esposto della stessa banca. La banca ha detto: io ho 16 posizioni alte a rischio, li denuncio alla magistratura perché ho l'impressione siano crediti sospetti. Cioè 16 posizioni che stanno compromettendo l'attività l'intera di un'intera banca. E questo è il dato di fatto. Tenete conto che la banca nel 2012 ha fatto una perdita di 500 milioni. Immaginate, per una cittadina come Iesi, perché sta a Iesi, vedere la banca ti produce 100 milioni di utili l'anno, fondazioni contente, improvvisamente ha un buco di 500 milioni. È come se tu ti mangi 6 anni di vita. E scopri che i crediti non erano stati classificati come perdite, quindi era tutto fittizio, il bilancio era di fatto fittizio, questo è il dato di fatto vero. E a quel punto scopri che la banca affidava su 9 grandi clienti, aveva esposizioni per 5,5 miliardi, quando l'attivo della banca è di circa 20. Tu non puoi concentrare su 9 soggetti così tanta quantità di denaro, perché ovviamente più denaro presta lo stesso soggetto, più rischi. Ovvio. E questo è un po' il tema delle piccole banche, che spesso hanno fatto crediti, come dire, non azzardati in sé, ma come volumi, come quantità e come spregiudicatezza rispetto ad alcuni soggetti. Io ricorderò sempre, questo continuo a citarlo come esempio, il signor Zunino, la famiglia Ligresti e il signor Zaleschi, personaggi noti nell'ambiente finanziario. Queste tre persone ricevevano dalle banche italiane, prima che fallissero più o meno tutti, Ligresti è andato in galera, Zunino è stato salvato alle banche, Zaleschi ha il terzo piano di ristrutturazione del debito, quindi in forte difficoltà. Solo questi tre soggetti fisici hanno preso dalle banche italiane 9 miliardi di prestiti. Pensate che lo stock intero di prestiti delle banche italiane sono 900 miliardi, cioè l'1% di tutto il denaro che le banche danno al sistema Italia era in capo a sole tre persone. Io lo considero sciagurata questa scelta delle banche. Per essere anche gentili, senti, no, ma continuando la storia di Banca Marche, adesso abbiamo un nuovo vertice, nuovi manager, come stanno gestendo questa patata bollente? E possono stare sicuri i clienti di questa banca su quel territorio? Ovviamente i nuovi stanno facendo pulizia, hanno mandato due esposti alla procura sulla vecchia gestione, hanno fatto quella enorme pulizia. Il problema però è che tuttora nel bilancio 2012 la banca 3,4 miliardi di crediti ancora a rischio su 17, cioè il 20% del portafoglio crediti della banca è ancora a rischio, nonostante il buco da 500 milioni. Io non sono un analista finanziario, però mi aspetto che una piccola parte di quei 3,4 miliardi verrà svalutata anche nei prossimi semestri. Quindi pensare Banca Marche che possa tornare facilmente all'utile è una pia illusione. Tant'è che una delle fondazioni che non farà l'aumento di capitale, la fondazione di Macerata, ha detto: noi ci aspettiamo. È un azionista di riferimento per il 22,5%. Esatto, quindi è un azionista importante. Si è dissociata dall'aumento di capitale, cioè non metterà più soldi perché ne ha già messi tanti. Ricordiamoci, Banca Marche fece un aumento di capitale nel 2012 a marzo. Con tanti anche imprenditori che sono intervenuti. Adesso gli imprenditori vorrebbero intervenire. Perché le fondazioni non sono più disposte a mettere denaro. Il problema è quello lì, che se il 50% del capitale, le tre fondazioni, Macerata, Iesi e Peso, rinunciano a mettere dei quattrini, deve arrivare qualcuno a metterli, a sostituirli, se no non c'è più un azionista. Ecco perché si sta muovendo una cordata di imprenditori. Ben vengano, perché servono 400 milioni, ma il problema è: basteranno quei 400 milioni? Io temo che se ne saranno necessari di più. Tenete conto che nel 2012 già la banca aveva chiesto soldi per 200 milioni, sono stati tutti bruciati dalle perdite di sei mesi dopo. E io mi aspetto che la pulizia andrà avanti. Senti, questa magari ti sembra una domanda sciocca, ma Monte dei Paschi ha avuto i Monti Bond. Una banca di questo tipo non potrebbe chiedere un intervento di questo genere? Attenzione, quello che mette in difficoltà Monte dei Paschi è il tasso di interesse dei Monti Bond. Mm-hmm. Cioè il vero problema di Monte dei Paschi è che paga un tasso di interesse del 9% su quei 4 miliardi. Se tu paghi un tasso di interesse così alto, solo gli interessi su quel debito ti mangiano l'utile, e quindi MPS spera che quel tasso possa scendere, e del resto il governo italiano si tutela, nel senso che dà dei soldi a rischio e chiede un tasso elevato. Quindi pensare che poi lo Stato intervenga sempre, da un lato può essere una sorta di ciambella di salvataggio, ma si tenga conto che sarà un prestito dato a caro prezzo, giustamente, perché il governo deve anche tutelare i suoi prestiti. Abbiamo anche un altro caso, che è quello di Banca Carige, che si sta riorganizzando per ragioni diverse, anche qua una cesura completa con il passato, appunto quel passato gestito dal vecchio presidente Berneschi. Questa è la settima banca italiana, non credo che abbia gli stessi problemi di Banca Marche, una grande riorganizzazione, però anche qui un asset in difficoltà, che è quello assicurativo. Beh, soprattutto la banca anche qui ha bisogno di fare cessioni per 800 milioni, perché la fondazione non è più disposta a mettere i quattrini. Ha già venduto la sua SGR, che è andata ad Arcan. Certo. Però anche lì Carige ha la stessa dinamica, cioè se vedete i bilanci di Carige faceva utili fino all'anno scorso in modo costante. Poi si è scoperto che quegli utili erano tali perché la banca accantonava poco per le perdite sui crediti. Ma cioè, i revisori dei conti? Bella domanda. Queste figure interne, appunto, che dovrebbero... Io ho un caso eclatante. Non si alza mai nessuno in piedi a Faccio dire Faccio solo no. un esempio. Banca Marche ha pagato alla Pricewaterhouse nel 2012, l'anno del buco di bilancio, 450.000 euro di consulenza per la revisione del bilancio. Se poi fai un bilancio e chiude con meno 500 milioni e dai 500.000 euro ai revisori, e capisci che il sistema non funziona più. Io non ho mai visto nessun collegio sindacale, nessun revisore contabile delle banche, ma anche nelle società, riuscire a muoversi per tempo dicendo lì non funziona. Ci si muove sempre quando oramai i buoi sono scappati dal recinto. Ebbene sì. Caro Fabio, continua a scrivere e raccontarci tutto questo, e noi continueremo a leggere sul Sole 24 ore naturalmente le tue inchieste. E intanto Focus Economia termina qui. Vi ricordo che, peraltro, a proposito di banche, domani il Sole 24 ore, nella pagina dedicata al tuo portafoglio, ha proprio un approfondimento sul tema dell'investimento sui corporate bond, quindi le obbligazioni emesse dalle società. Grazie a Mauro Del Corno per la collaborazione in redazione, Valeria Bernardi in assistenza tecnica. Anche domani Bisso, Salvadanaio e Focus Economia. A tutti buona serata. Radio 24, la passione si sente.